Allora, questo 2006 va a concludersi con l'EICMA, qual è il consuntivo per questo anno passato? Per Suzuki sicuramente molto positivo, anche perché abbiamo immesso una serie di modelli nuovi che ci hanno dato da subito delle grandi soddisfazioni. In particolar modo GSR e Burman 400 ci hanno dato delle soddisfazioni, perché abbiamo potuto attraverso questi modelli confermare che quando la casa madre segue le indicazioni dei mercati locali e importanti, soprattutto per il Burman come il mercato italiano, i risultati non mancano di arrivare. Ecco, l'Italia e Suzuki, il rapporto com'è stato? In crescendo oppure è stato sempre buono in questi anni? Beh, devo dire che è stato sempre abbastanza buono, abbiamo però avuto naturalmente dei momenti di alti e dei momenti di bassi, però complessivamente è un mercato molto interessante per la Suzuki, e anzi direi che è il più interessante dei mercati europei, anche perché è molto diverso nei cambiamenti e poi presenta delle tipologie di clientela completamente diverse da quelle che sono gli altri mercati, molto orientati verso la moto, molto poco orientati verso il turismo. Ecco, l'ultima cosa, in questo momento il Burgman, qui tra l'altro c'è un nuovo modello, se non sbaglio, fa tendenza, fa veramente tendenza, che cos'ha in più rispetto agli altri? Beh, no, intanto dobbiamo ricordarci che Burgman è stato introdotto in Italia come primo vero maxi scooter, perché è stata la prima 400 che è comparsa sul mercato, era Burgman. Dopodiché, sia dal punto di vista stilistico, sia dal punto di vista prestazionale, sia per la cura che è sempre stata messa dalla Suzuki nel creare degli spazi sotto sella ampiamente gestibili, devo dire che tutto un insieme di fattori alla fine ha creato una forza trainante di un marchio quasi forte a sé stante. Cioè, veramente un marchio molto molto forte. Adesso proviamo con il nuovo Burman 200 a ribadire il concetto di innegabile superiorità che il Burman 400 ha dimostrato fino adesso sul mercato. L'ultima cosa, quanto del Piero ha fatto sì che questa cosa potesse andare ancora meglio? Allora, misurare la forza dei testimonial è sempre abbastanza difficile. Certamente Del Piero è uno sportivo riconosciuto come elegante, stilisticamente raffinato, per cui è comunque un personaggio positivo. Devo dire che affiancare un personaggio positivo che ha accettato anche, per esempio, nel momento di disgrazia della sua squadra, di recitare il suo ruolo con dignità anche in una categoria inferiore rispetto al passato, devo dire che tutto questo depone a favore suo e naturalmente dei prodotti che lui in qualche modo sostiene come testimone. Perfetto, la ringrazio molto, grazie, è stato un piacere, grazie.